Mr. Kilowatt. Alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Un'alternativa a gasolio e benzina per quanto riguarda le automobili esiste da sempre. Parliamo del gas, metano o GPL. Pensate che negli anni 30 la Jeep pubblicizzava il metano come il carburante del futuro. E proprio alla fine di quel decennio furono scoperti in pianura padana degli importanti giacimenti di metano, almeno per l'epoca. Un'epoca in cui l'Italia aveva addirittura ambizioni autarchiche per quanto riguardava il proprio fabbisogno di energia. Queste ambizioni sarebbero sfumate molto presto e anche l'era del metano si sarebbe chiusa rapidamente. Il petrolio e i suoi derivati hanno presto preso il sopravvento, mentre metano e GPL finivano relegati in un ruolo da combustibili per poveracci. Oggi invece si torna a guardare a metano e GPL con rinnovato interesse perché offrono vari benefici dal punto di vista ambientale e permettono anche una certa differenziazione dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. Ne parliamo con il professor Fabio Recchini, che è coordinatore del gruppo di ricerca Automotive dell'Università della Sapienza di Roma. Buonasera Recchini. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta Recchini, ma cos'è che ha determinato storicamente questa sconfitta del gas? Ma guardi, in realtà non è che ci sia stata una sconfitta del gas, sicuramente c'è una vittoria di benzina e diesel, cioè dei combustibili liquidi che hanno una comodità di utilizzo talmente enorme che tutto il resto insomma ha faticato molto e fatica tutt'oggi ad affermarsi. Certo. Anche l'auto elettrica in fondo, no? Fa fatica ad affermarsi contro questo liquido incredibile che è la benzina, che ha una densità energetica enorme, no? Ed è facile da trasportare. Ma sì, guardi, in realtà la grande vittoria dei combustibili petroliferi e del petrolio è stata proprio su questo punto. Il petrolio e i suoi derivati sono eccellenti vettori di energia, certo. Cioè permettono di trasportare energia facilmente. Quindi eccolo che il gas e anche l'auto elettrica o l'auto idrogeno si scontrano con la stessa difficoltà, invece non hanno quella densità, sono gassosi, vanno compressi, vanno... Ci vogliono bombole, per esempio, no? Non basta lavorati, un normale serbatoio. Certo, anche se ci sono dei paesi che hanno delle condizioni particolari, e il nostro è uno di questi però, cioè sono attraversati da dorsali o comunque da importanti gasdotti di gas naturale e quindi in realtà in quei paesi ci sono delle condizioni particolari che permetterebbero una competitività reale di questo combustibile, principalmente del metano. GPL è un discorso un pochino diverso. Perché è un derivato del petrolio, no? È la parte più leggera del petrolio, non è proprio alternativo da quel punto di vista. Ma guardi, sì però, perché in realtà pochi lo sanno, ma oltre il 50% del GPL distribuito in Italia deriva dal metano. Ah. Anche questo nome, quella P che sta al centro di GPL, no? Che è gas di petrolio liquefatto. In realtà oggi non è neanche così vera e quindi anche il GPL tra l'altro è derivabile, così come il metano, anche da fonti rinnovabili, cioè non esiste solo il metano. Il biometano, diciamo che esisterà anche il bio-GPL o qualcosa del genere. Senta, siamo arrivati al punto. Quali vantaggi offrono questi gas dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista economico, le chiedo, perché lì sono veramente notevoli. Ma guarda, da un punto di vista economico, iniziamo col macroeconomico, non ci si lega a un'unica fonte o a un unico vettore, ma si differenzia e quindi già avere anche una buona percentuale di metano sicuramente un buon mix. Da un punto di vista microeconomico invece, quindi del consumatore finale, specialmente nel momento in cui si arriva a una tassazione legata alle emissioni di CO2 e quindi diciamo all'emissione di carbonio, il metano contiene meno carbonio, la sua formula è CH4, quindi c'è molto idrogeno e poco carbonio. Questo significa che un'automobile a metano, ancora meglio se ha biometano, ma a metano può emettere 60 grammi di CO2 al chilometro, quando un'automobile molto efficiente ne emette 120. Tra l'altro, essendo un gas, si miscela perfettamente con l'aria, insomma la combustione è molto migliore, per cui si riduce proprio anche l'inquinamento, il particolato crolla, vero, rispetto alla benzina, per esempio, al diesel? Ma decisamente sì, le emissioni più pericolose per la salute sono il monossido di carbonio, NOx, particolato. Con il metano vengono abbattute tutte, in modo particolare il particolato, certo, che è quello che poi causa i blocchi del traffico. Ecco, dal punto di vista del portafoglio del consumatore, il risparmio è notevole perché si va dal 40 al 60% di risparmio a parità di percorrenza. Questo anche perché ci sono meno accise, ecco, no? È quello una delle ragioni. dipende dal prezzo dalle tasse. Però infatti, diciamo, siccome le tasse saranno legate alle emissioni di CO2, io non mi aspetterei tasse in ascesa per il metano. Invece le limitazioni a cui si va incontro se si acquista un veicolo a gas quali sono? Ma guardi, la maggior parte dei modelli non sono solo a metano, ma sono bi-fuel, cioè sia a metano sia a benzina. Perché questo? Perché chi compra un veicolo di questo genere non vuole essere legato a un unico combustibile che non ha una distribuzione così capillare. E questo è uno dei limiti, la distribuzione, infatti, no? E certo, e quindi dovendo avere un motore che deve poter andare con tutti e due i combustibili, non si sfruttano al meglio le caratteristiche del metano e quindi anche le performance a volte non sono così eccellenti, anche se i nuovi motori sovralimentati che stanno arrivando tagliano questo tipo di problemi e quindi anche i motori a metano avranno eccellenti performance. L'altro era quello della difficoltà di collocare i bomboloni o comunque insomma il gas compresso all'interno del veicolo e quindi si perdeva spazio all'interno del bagagliaio. Questo parlo al passato perché tutti i nuovi modelli in realtà hanno un'integrazione nel pianale e questo non c'è più e molti non lo sanno. Parcheggi, si dice che insomma ci possono essere dei problemi di parcheggio. Guardi, questa anche sul metano non è vero, non è mai stato vero. Allora, il metano è un gas estremamente volatile, quindi non ha problemi di parcheggio da nessuna parte. Il problema esisteva sul GPL che è più pesante dell'aria. Per questo nei parcheggi interrati non si poteva parcheggiare con le auto a GPL. Anche qui però parlo al passato, perché i nuovi veicoli hanno delle valvole di sicurezza particolari che in realtà permettono, la legge ne permette il parcheggio anche in garage interrati. Adesso, a parte la polemica sul parcheggio, no, fa capire che il livello di sicurezza è praticamente è molto elevato. Grazie professor Recchini. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento domani sera.